vana, fragile l'incontro, invece deve rimanere. A proposito della varia umanità che frequenta questo telefono del vento, senza fare troppo spoiler, vi posso, diciamo, anticipare che c'è un personaggio che teoricamente va lì a parlare col padre. Lui diceva che il padre è morto durante lo tsunami e invece no, però è come se fosse morto, perché quello che ha visto dopo lo tsunami, l'orrore dei corpi dilaniati, l'ha fatto come sparire da se stesso e dagli altri, e quindi questo ragazzo va lì per cercare di recuperare un rapporto con suo padre. Poi come va a finire naturalmente non ve lo diciamo. Grazie a Laura Imai Messina, ora in libreria con Quel che affidiamo al vento, pubblicato da PM. Grazie Laura. Grazie. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. E in un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci, ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il futuro e oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Nel mese di febbraio parliamo di studio all'estero. Il cacciatore di libri. È pieno di riflessioni sulla vecchiaia, i ricordi, l'amore vissuto a qualunque età. Si intitola Le 18 frustate dell'israeliano Asaf Gavron, pubblicato in Italia da Giuntina con la traduzione di Shira Katz. Ha scritto romanzi come Idromania e La collina ed è il traduttore in ebraico di Philip Roth. Fra l'altro Gavron canta anche in una rock band, quella che stiamo ascoltando è proprio una delle sue canzoni. Al centro di questo romanzo dal grande ritmo c'è Eitan, detto Tanin, 44 anni e un quarto, come dice lui, tassista a Tel Aviv, che si improvvisa investigatore, personaggio già presente nel romanzo La mia storia, la tua storia. Tanin accompagna ogni giorno un'anziana signora, Lotte, dalla casa di cura al cimitero. Durante quel tragitto fra i due inizia a crearsi una certa confidenza, tanto che Lotte inizia a raccontargli la sua vita. Una storia concentrata nel 1946, prima della nascita dello Stato di Israele, quando lei e la sua amica Ruti ebbero entrambe una relazione con due soldati dell'esercito britannico, Edward e James. A distanza di 60 anni, Lotte aveva rivisto Edward a Tel Aviv e nonostante avessero entrambi superato gli 80 anni, diciamo che la passione e l'amore erano rimasti immutati. Neanche una settimana dopo, però, Edward era morto in circostanze misteriose. E allora ecco come Asaf Gavron descrive il suo protagonista con la traduzione dello stesso editore Shulem Vogelman. Tanin è Nagmonit. Tanin è un tassista, ha 44 anni e un quarto, divorziato, ha una bambina, un tempo lavorava nell'high-tech, effettivamente quando lavorava nell'high-tech era anche dentro a un mio romanzo precedente. E lui effettivamente ha questa passione, questo desiderio di fare il detective, e quando gli capita di incontrare questa donna che porta al cimitero e lei gli dice che ha paura di essere assassinata e poi addirittura scompare, allora decide che questa è la sua occasione finalmente per fare un'investigazione. E infatti è molto bello il rapporto che si crea fra Tanin e Lotte, perché appunto Tanin la porta tutti i giorni dalla casa di riposo al cimitero e Lotte inizia a raccontare un po' la sua storia. Inizia per esempio a dirgli che al cimitero va a trovare un uomo che è stato l'uomo che lei ha amato per tutta la vita, ma che non aveva visto per 60 anni sostanzialmente. Poi si sono rivisti a Tel Aviv in Israele ed era scoppiata di nuovo la passione. In che modo si realizza questo rapporto fra il tassista Tanin e l'anziana signora Elotte? Inizia davvero tutto con un viaggio in taxi. Come abbiamo detto, andava a un funerale e dopo che lui è rimasto al funerale per far parte di una cerimonia ebraica dove c'è bisogno di 10 uomini, lei gli chiede di riportarla in casa di riposo e lì iniziano a parlare. E nonostante la differenza di età, Lei ha iniziato a raccontargli del suo amore passato e così anche lui si è aperto e ha iniziato a raccontarle della sua vita. E nel momento in cui lei scompare, lui ha già sviluppato una vicinanza, un'amicizia con questa donna nonostante la sua età e sente la responsabilità di volerla ritrovare, forse per saperne ancora un po'. Lentamente si viene a scoprire il passato di Lotte, in particolar modo il momento, siamo nel 1946 in Israele, in cui lei e la sua amica Ruthie hanno delle relazioni sentimentali con due uomini, James e Edward. Edward è irlandese, ma entrambi fanno parte dell'esercito britannico. E qui andiamo ad un periodo storico molto importante per Israele. Lo Stato di Israele non era ancora nato, stiamo ancora parlando del mandato britannico, e poi appunto dal 48 in poi nascerà Israele. Perché hai scelto questo periodo storico? זו תקופה שהייתה בה המון דרמה והמון אלימות, במיוחד התקופה של המנדט. È un periodo che ha visto molta violenza e molta passione, in particolare nei tre anni che vanno dalla fine della seconda guerra mondiale fino all'indipendenza dello Stato di Israele, dal 45 al 48. E le persone che sono magari più attente ai due grandi eventi di questo periodo, ossia la Shoah e la Seconda Guerra Mondiale da un lato e la fondazione dello Stato di Israele dall'altro, magari conoscono meno rispetto a quello che è successo durante appunto il mandato britannico. Per quanto mi riguarda c'è anche una questione personale, infatti i miei genitori sono inglesi e sono andati in Israele dall'Inghilterra. Terra. E quindi ho sempre saputo che dentro di me convivevano due identità e sapevo anche che il momento in cui queste due identità si scontrano nel modo più forte è proprio durante il mandato britannico, quando si è creato un conflitto fra ebrei e inglesi. E proprio come avviene nel romanzo, succedeva spessissimo che si creassero degli amori fra inglesi ed ebrei o viceversa, e come detto era anche un periodo di violenza, un periodo di conflitti, e nel mio romanzo ho voluto prendere questi due aspetti e mischiarli un po' insieme. Quando Lotte incontra Edward a distanza di 60 anni, appunto entrambi hanno più di 80 anni, eppure fra loro l'amore è rimasto identico e anche la passione. Come mai hai voluto raccontare anche questo aspetto dell'amore passionale possibile anche ad una certa età? Come detto, mi sono voluto occupare di questo periodo di conflitto tra ebrei e inglesi, ma non volevo scrivere un romanzo storico che succede tutto a quel tempo. Volevo che la parte principale del romanzo fosse ambientata oggi. E mi affascina l'idea che ci sono persone, anziani, che però hanno vissuto tanti anni fa eventi storici fondamentali, e mentre scrivevo mi sono chiesto cos'è che può resistere per 60 anni, e le risposte che mi sono date sono: uno, l'amore, e due, il sentimento di vendetta e umiliazione. C'è una frase che Lotte dice a Tanin, che apparentemente è una frase banale, gli dice: l'amore è tutto. Eppure questa frase nella mente di Tanin diventa quasi deflagrante, perché lui inizia a pensare, inizia a girare intorno a questa frase e si interroga sulla sua situazione personale. Perché questo effetto così appunto deflagrante di questa frase? È un'età di passaggio fra, come dire, gioventù e vecchiaia. Lui è stato sposato, ma le cose non sono andate tanto bene, e adesso si avvicina a quella fase in cui si pone la domanda: forse ho perso un'occasione, forse sto perdendo qualche occasione, e si dice: forse non vivrò più nessun amore, nessuna passione. E invece incontra questa donna di 85 anni che ha una passione di una potenza incredibile e quindi ne rimane affascinato. Naturalmente Tanin si metterà ad investigare sulla morte di Edward, dovrà scoprire insomma sostanzialmente le cause, anche perché Lotte ha paura lei stessa di essere uccisa. Si verranno a scoprire dei misteri che ovviamente qui non possiamo dire. Possiamo però dire che comunque nel passato di ognuno di questi personaggi c'è qualche scheletro nell'armadio. Effettivamente abbiamo questi quattro personaggi e ognuno è colpevole di qualcosa e non è facile capire chi sia il vero colpevole perché ognuno ha i suoi problemi e le sue malefatte e quando inizia a investigare il punto nodale dove tutto un pochino si riconduce è un evento reale, vero, accaduto nel 1946. Quanto conta nella tua narrazione, nel tuo stile, ma anche nella tua vita l'ironia? È molto importante, è una parte di me e forse chissà è parte della mia parte inglese e credo che sia importante soprattutto quando si scrive di argomenti difficili che possono essere pesanti, impegnativi come la politica oppure di questioni tragiche, ma può essere anche pericoloso perché bisogna stare attenti a non deridere, a non ridicolizzare quello di cui si sta parlando, ma a trovare un modo leggero di farlo e questo è quello che cerco un po' di raggiungere con la mia scrittura. E questo era Saf Gavron, ora in libreria con Le 18 frustate, pubblicato in Italia da Giuntina. E prima di chiudere, due rapide segnalazioni di festival. Per gli appassionati di gialli, noir e thriller, fino a domani a Suzzara, in provincia di Mantova, c'è la Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival, 14ª edizione. Fra gli altri ci sono incontri con Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Sandrone Dazieri. Il programma completo su nebbiagialla.eu. E a Milano fino a domenica c'è Writers, gli scrittori si raccontano, 8ª edizione. Ai frigoriferi milanesi una serie di incontri con autori come Walter Siti, Michele Mari, Stefano Bartezzaghi, Gianni Biondillo, Paolo Nori, Chiara Valerio, Nicola Gardini. Il programma su writersfestival.it. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Laura Imai Messina su Quel che affidiamo al vento, a Saf Gavron su Le 18 frustate. Musiche: We Wo Mi Te Aruko di Sakamoto Kyu, Hamas Kana dei Mountain Foot. In regia Roberta Frisani. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete sempre essere aggiornati su quello che stiamo preparando per voi, potete seguirci sui social. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL e anche naturalmente su Facebook la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.